9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e viene ogni tanto, viene un venerdì 17. Allora, il venerdì 17 noi tocchiamo uno dei soliti punti da venerdì 17, cioè di quelli che quando li tocchi, cioè stiamo parlando del deficit pubblico italiano, del debito pubblico italiano, del come fare per affrontarlo, quali manovre mettere in campo, è possibile o non è possibile nel frattempo anche ritoccare significativamente le tasse. Avremo con noi ospite, un ospite unico, un po' alternativo rispetto alla linea governativa di Giulio Tremonti, e Mario Baldassarri. Mario Baldassarri ci spiegherà il paradosso di un paese che da 20 anni fa grandi manovre di punti di PIL per diminuire il deficit, eppure chissà com'è, la spesa pubblica aumenta sempre, le tasse aumentano sempre, il debito pubblico è addirittura triplicato in 20 anni. Allora ci spiegherà questo paradosso e ci spiegherà perché da questo paradosso la sua conclusione è che per azzerare il deficit al 2014 e per far ripartire l'economia si debba seguire una strada un po' diversa da quella seguita fin qui. Ascolteremo la sua strada e soprattutto la penseremo un po' diversamente o meno, vedremo, ma siamo molto curiosi di capire voi come la pensate. 800 24 00 24. Oggi è venerdì 17, quindi gli scaramantici per favore non credano che sia un giorno particolarmente di quelli da evitare, è un giorno come tutti gli altri, ma parliamo di un tema invece di quelli che non vanno affrontati con scaramanzia ma vanno affrontati con grande attenzione. Ieri abbiamo fatto la premessa, abbiamo dedicato l'intera puntata alla nuova grave sviluppi in corso della crisi dell'eurodebito, non solo la Grecia, avete visto quanto sono schizzati su ieri gli spread di tutti i paesi che in lista compongono la lista dei sospettati da parte dei mercati. Oggi trovate nuovi approfondimenti un po' dovunque. Questa è la contingenza europea di una crisi che a un anno e mezzo dall'apertura del crack greco è ben lungi dall'essere agli occhi del mercato risolta. La BCE ha in prospettiva aumenti dei tassi e in questa contingenza il problema dell'Italia è come fare per l'ennesima volta a contenere gli andamenti della sua finanza pubblica. Il governo ha preso un impegno, questo impegno è l'azzeramento del deficit al 2014. Il punto è come realizzare questo azzeramento del deficit e contemporaneamente come e se mettere in atto interventi a favore della crescita senza pregiudicare i saldi. E in più, terza questione, anche quella di smascherare dal punto di vista un po' diverso da quello del pensiero ordinario un grande trucco, che è quello per così dire della finanza pubblica italiana. Qual è questo grande trucco? Ecco, è un trucco svelato dal rapporto che di anno in anno il Centro Studi Economia Reale, diretto da Mario Baldassarri, che è qui con noi e tutta la puntata è per lui, per spiegare il suo punto di vista, che è un punto di vista diverso da quello del dibattito prevalente nel nostro paese. Mario Baldassarri, per chi non lo sapesse, è il presidente della Commissione Bilancio al Senato, è un economista di vaglia, è responsabile economia di Futuro Libertà ed è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io vi dico solo questo prima di cedere la parola a lui, ma di avervi fatto sentire anche poi in 30 secondi il punto di vista alternativo rispetto al suo. C'è un passaggio del rapporto, il sesto rapporto sull'economia italiana del Centro Studi Economia Reale di Baldassarri, che ieri mi è molto piaciuto e ve lo voglio leggere. Riflettete su queste cifre. C'è scritto che da circa da decenni in Italia noi non facciamo altro che confrontarci con manovre di tagli alla spesa pubblica, i tagli enormi, le reazioni ai tagli. Poi andiamo a vedere che cosa davvero è successo in questi anni. Ecco, nonostante tutti questi anni, si legge, la spesa pubblica è passata nel 1990 dai 373 miliardi di euro del 1990 agli 800 miliardi di euro del 2010, ben oltre il 50% del PIL. La pressione fiscale nel frattempo, in tutti questi anni di tagli, manovre eccetera, la pressione fiscale è aumentata di 6 punti di PIL, era il 38% nel 1990, ha sfiorato il 44% nel 2010. Il totale delle entrate pubbliche è aumentato di oltre 5 punti di PIL, passando dal 41,8% nel 90 sempre al 47% del PIL. Ecco, svelare questo trucco e questo mistero, perché vi si passa l'idea che ci sono i grandi coloro che contengono con dighe invalicabili la finanza pubblica, e poi andando a vedere invece questo è il risultato, è già un buon apprezzabile inizio. Ora, prima di farci spiegare la via Baldassarre, in che cosa non funzionano i cosiddetti tagli lineari e come si può intervenire per la crescita, una pillola invece sul pensiero che oggi va per la maggiore, quello a cui tutti dedicano molto consenso, sia organizzazioni sociali che i grandi media. Naturalmente sto parlando, lo riconoscerete al volo, del Ministro dell'Economia. Se il mondo è squilibrato, il tuo bilancio deve essere equilibrato. Scassare, ottenere scassato il bilancio pubblico è una strategia che non è nell'interesse collettivo e non è nel bene della gente, è il prodotto di irresponsabilità. Secondo quanto noi riusciamo a tagliare da una parte per finanziare la riforma fiscale. Sono convinto del fatto che aliquote le più basse possibili sono il migliore investimento per ridurre l'evasione fiscale. Ecco. Una sola cifra aggiuntiva della manovra, così come la decisione economica finanziaria, la DEF di qualche settimana fa, l'ha messa al centro della politica, e la politica la dovrà tradurre ora nell'esame della manovra estiva che arriva tra poco e poi nella legge di stabilità a fine anno in numeri concreti. Nei prossimi anni, per ottenere l'azzeramento del deficit, il Ministro dell'Economia ha indicato un aumento delle entrate, aprite bene le orecchie, per oltre 90 miliardi di euro, 93, dei quali 25 vengono indicati a copertura del deficit, tutto il resto è a copertura di spesa che ancora una volta cresce. Ecco, domanda, visto che vi si dice c'è un'enorme manovra di tagli, serve anche poi per fare la riforma fiscale, questa è quello che dice il governo stesso, altri 75 miliardi di euro di maggiori spese che arrivano. Allora, io ho finito a questo punto e cedo la parola a Mario Baldassarre per indicarci che cosa non va in questa prospettiva e che cosa diversamente si può fare invece. Certamente, se mi consente Giannino, una pillola sulla Grecia, perché l'anno scorso mi ero permesso di far notare che quando si è dato tardi e male il prestito alla Grecia, tardi perché si è chiacchierato per mesi per avere il consenso europeo che è ormai un condominio, e quindi ottenere decisioni concrete da un condominio sappiamo tutti quanto sia difficile. Male perché c'è un vecchio teorema di Solow. Robert Solow è un premio Nobel dell'economia, casualmente anche mio maestro, ma al di là di questo è un gigante della teoria della crescita. Il teorema dice che se il tasso di interesse reale supera il tasso di crescita dell'economia, il debito è insolvibile, il debito pubblico. Allora, cosa ha fatto l'Europa? Ha dato un prestito alla Grecia al 5%, togliamo pure 2% di inflazione, quindi vuol dire che il tasso di interesse reale per salvare la Grecia l'anno scorso era 3%. Era in quel momento stesso una dichiarazione di insolvibilità del debito greco, perché nessuno di buon senso può immaginare che nei prossimi 20 anni, 30 anni, la Grecia possa crescere al 3% reale all'anno. Ed era ovvio che a distanza di qualche mese o di circa un anno o poco più il problema Grecia si riproponesse. Chiuso il telegramma sulla Grecia, veniamo al mistero della finanza pubblica italiana. Il mistero è molto semplice da svelare, basta rispondere alla domanda: come mai dopo 30 anni, 25 anni in cui ogni anno leggiamo sui giornali che qualunque governo, prima repubblica, seconda repubblica, centrodestra, centrosinistra, effettua tagli poderosi di spesa pubblica, aumenti altrettanto poderosi di entrate, tasse, e dopo questo periodo ci troviamo col terzo debito pubblico del mondo, e qui l'aritmetica non torna. Allora, la verità storica è che tutti quei tagli che abbiamo letto ogni anno sui giornali e annunciati alla televisione sono tagli riferiti ai valori di spesa tendenziale per gli anni futuri. Faccio un esempio. Quest'anno abbiamo speso 100 euro. Qualcuno stima che l'anno prossimo la spesa tendenzialmente andrà a 130. Allora il governo, qualunque esso sia, decide di tagliare 20 e su questo taglio di 20 si scatenano tutti i contrasti, polemiche, macellerie sociale, sanguisuga e quant'altro. La verità aritmetica è che nel momento in cui il governo riesce a far passare in Parlamento questo taglio di 20 sui valori di spesa tendenziale per l'anno prossimo, in realtà in quel momento governo, Parlamento e tutti noi abbiamo deciso di aumentare la spesa pubblica da 100 a 110. Allora ho riportato questo giochetto aritmetico nell'ultimo rapporto di Economia Reale. Daniele ci chiede: dove posso trovare la relazione del Centro Studi? C'è un sito? Sì, è sul sito già da ieri online, sul sito www.economiareale.it. Ad ogni modo, in questo giochetto aritmetico, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti i documenti ufficiali di finanza pubblica dal marzo 2008, per non risalire troppo indietro, e quindi l'ultimo documento, relazione unificata sull'economia e la finanza dell'allora ministro Tommaso Padoa-Schioppa, e poi abbiamo messo tutti gli altri documenti in fila fino all'ultimo del ministro Tremonti, che è il documento di economia e finanza del 13 aprile 2011. Le sigle di questi documenti cambiano nel tempo, la sostanza non cambia, DPF, DEF, DUEF, RUEF e quant'altro. Bene. Dove si vede che, leggendo quella tabella in verticale, cioè mettendo in sequenza cronologica i documenti, ci sono imponenti tagli di spesa. Dall'inizio del primo documento all'ultimo, per il 2009 abbiamo tagliato 47 miliardi di spesa, per il 2010 42 e così via nel 2011, 2012, 2013. Tutti questi tagli col segno meno sono riferiti ai valori tendenziali. Ma se si leggono i numeri per riga invece che per colonna, che sono i numeri storici, si vede che in realtà il giochetto di 100-130 meno 20, noi in realtà abbiamo costantemente, anno dopo anno, aumentato la spesa pubblica. L'ultimo documento di aprile, mentre appare un taglio di 13 miliardi rispetto al primo documento sul tendenziale, di fatto significa, dopo quel taglio, che la spesa pubblica aumenta di 35 miliardi. Se facciamo questo applicato proprio all'ultimo documento di economia e finanza, e ci sono le tabelle, esattamente succede quello che lei indicava, e cioè che in quelle tabelle si vede che da qui al 2014 le entrate aumentano di 93 miliardi. Queste maggiori entrate servono per tagliare il deficit in questi anni di 25 miliardi. E dopo questo taglio, però, ricordiamo, il deficit del 2014 sarà ancora di 46 miliardi, e da qui l'impegno del governo a fare un'ulteriore manovra per portarlo a zero. Ma la cosa ancora più interessante è che la restante parte delle maggiori entrate, cioè 67 miliardi in più, va a coprire la spesa pubblica. Aumenti di spesa pubblica, di spesa corrente, per 75 miliardi e tagli in valore assoluto degli investimenti per 8 miliardi. Allora, non lo dico da oggi, lo dico da parecchi anni. Il risanamento del deficit è atto dovuto da parte di qualunque governo e da parte di qualunque persona di buon senso. L'azzeramento del deficit è dovuto. Il problema però è come si persegue e si raggiunge questo obiettivo. Se continuiamo dopo tanti anni e anche negli ultimi 2 o 3 anni con questo tipo di manovre, che cosa succede? Che la spesa si taglia in apparenza e invece aumenta. Cresce. Le entrate devono crescere per coprire la maggiore spesa e per tagliare il deficit. Per di più, se questo viene ottenuto con aumenti di spesa corrente e tagli agli investimenti, è inevitabile, lo ha dichiarato anche il governo stesso l'anno scorso, che l'effetto sull'economia è quello di frenare la crescita economica, ridurre l'occupazione e quindi, e qui manca al Ministero dell'Economia da sempre, la misura dell'effetto cosiddetto di retrazione. E cioè, se io faccio una manovra, questa agisce sul sistema economico, in che modo? Se riduce la crescita, l'occupazione e quant'altro, evidentemente mi ricrea il problema del deficit. È quello che ho chiamato il cane che si morde la coda. Allora, se questo sistema va cambiato, la domanda diventa: allora, per azzerare il deficit e contenere questo aumento della spesa che oggettivamente, storicamente, sta nei dati, che per il momento è irrefrenabile, come si può fare diversamente? Si può incidere in termini reali sulla spesa senza creare, a maggior ragione, poi l'accusa di fare quella macelleria sociale, eccetera? Lei nella relazione fa degli esempi, cioè dice: in questo e questo modo ci sono due interventi concreti di limitazione della spesa ai livelli del 2009, quindi avete capito, senza entrare più in questa logica di slavina degli incrementi tendenziali di cui solo una parte viene azzerata. No, si prende un livello reale, storico di spesa e si dice: qua bisogna incidere per una tot percentuale. Si fa una scelta precisa invece dei tagli lineari, capite, quelli che vanno per la maggiore tot percentuale uguale per tutte le voci di spesa. Dice: no, noi facciamo un esame per cui in questa e questa voce incidiamo in termini reali, cioè blocchiamo e invertiamo l'andamento reale della spesa in quelle voci. E lei fa degli esempi e in più dice: così si liberano risorse anche per interventi a sostegno della crescita senza pregiudicare il deficit, anzi stoppando l'aumento inerziale della spesa e quindi anche mettendo un limite con minore spesa reale alla necessità che le maggiori entrate, così numerose come avete visto, altri 93 miliardi di aumento delle entrate, servano a coprire questi due fenomeni. Che esempi concreti le fa per far capire a chi è in ascolto? Intanto va chiarito subito che effettuare i cosiddetti tagli lineari orizzontali sulla spesa pubblica significa incidere in modo più o meno proporzionale in tutte le voci di spesa. A mio parere questa non è politica economica, ma non è neanche politica, perché la politica deve scegliere cosa fare, quindi cosa tagliare e semmai cosa aumentare. Quindi non è una scelta politica, è un pilota automatico in un certo senso, che crea però l'effetto che abbiamo detto prima, in più una enorme iniquità sociale. Perché? Perché se io taglio del 10% tutte le spese, finisco prima o poi con la situazione che abbiamo vissuto in questi anni, per la quale i carabinieri e la polizia non hanno più la benzina per le automobili, ma chi sprecava, rubava o faceva malversazioni per 100, siccome abbiamo tagliato, le fa per 90. Che non è una grande soluzione. Che eh? Francamente, dal punto di vista proprio politico e anche etico, se permette, non è una grande soluzione. Allora, ci sono due passaggi mentali da un certo punto di vista, di metodo. Il primo è quello che lei ha già detto. Basta con annunciare tagli sui valori futuri tendenziali. Prendiamo l'ultimo dato storico. Per ogni voce di spesa si dice: beh, in quella voce l'anno scorso quanto abbiamo speso? 100. E su quello decidiamo: per i prossimi anni puoi spendere 90, 80 o in alcuni casi 0. Ecco. E per altre voci invece si dice: per i prossimi anni hai speso 100, l'anno scorso puoi spendere 105, 110. E questa è la scelta della politica. Secondo, bisogna andare dentro le varie voci di spesa e vedere cosa contengono. Per far capire agli ascoltatori, il totale della spesa pubblica italiana è pari a 800 miliardi di lire. Yeah. Per la precisione, va dato anche questa notizia: nell'anno 2010, anno di grazia 2010, per la prima volta dopo 30 anni, il totale della spesa pubblica, nei numeri del documento di economia e finanza, appare un po' minore in valore assoluto rispetto all'anno 2009. Quindi in apparenza potrebbe sembrare un risultato molto positivo, cioè la spesa totale nel 2010 non è aumentata. Bene? A parte che bisognerà vedere, perché a fine anno qualche giochetto di spostamento a gennaio di alcune spese si può fare. Però lo si è sempre fatto, ma prendiamo atto di questo. Però se andiamo a vedere il come, la verità è che la spesa totale non è aumentata, però è aumentata di molto la spesa corrente, e il risultato di non aumento nel totale è dovuto al taglio drastico degli investimenti, il che vuol dire che questo incide sulla crescita, l'occupazione e quindi frena ulteriormente l'economia. Ma su quegli 800 miliardi di spesa pubblica, andiamo a vedere, perché i capitoli del bilancio pubblico sono 6.000, 7.000, ma le voci economiche sono 5, nel grandi aggregati, salari e stipendi, e si vede nel DEF di aprile che questi sono stati bloccati. Da qui al 2014 sostanzialmente non aumentano, fermi in valore assoluto. Pensioni. Abbiamo fatto la riforma pensionistica, c'è un problema di allungamento ulteriore dell'età che si adegui all'anagrafe e c'è un problema tragico dei giovani che già da oggi sappiamo non avranno pensioni o avranno pensioni da fame. Una società responsabile, anche se questo è un problema che verrà fuori fra 20 anni, dovrebbe porsi, però la qualcuno questione. Si deve chiedere cosa faranno i figli. Queste pensioni aumentano comunque da qui al 2014 di 33-34 miliardi di euro. Bene, questa è l'anagrafe che porta avanti, sappiamo, da anni, e quindi fa incrementare nel tempo la spesa pensionistica. Ecco, terza voce, interessi sul debito pubblico. Qui, come dico sempre, io che sono un credente, forse dobbiamo fare delle novene alla Madonna. Perché? Perché già nei conti del governo, giustamente, è inserito da qui al 2014 un maggior onere per interessi che è pari a 27 miliardi di euro. Cioè dai 70 miliardi dell'anno scorso andiamo attorno a 100 miliardi di euro. E con l'aumentare dello spread di questi giorni, anche speriamo che sia un fatto momentaneo, però certamente questo è l'indizio. Allora, delle cinque voci ne restano due. Gli stipendi li abbiamo bloccati, le pensioni contengono l'effetto anagrafe e non possiamo, dobbiamo allungare l'età, ma questo non ha effetto per i prossimi 2 anni, deve avere un effetto di medio-lungo termine. Gli interessi, non possiamo farci nulla perché il debito che abbiamo è quello che è, i tassi li fanno i mercati e qui restano le altre due voci. Le altre due voci sono tutti gli acquisti di beni e servizi di tutte le pubbliche amministrazioni che ammontano a 137 miliardi e che in alcuni casi... Soprattutto delle autonomie più che esatto, dello Stato centrale. Esatto, infatti negli ultimi anni queste spese di acquisti, non il totale della spesa per la sanità, per la scuola o per quella, all'interno di ogni voce delle funzioni pubbliche, le funzioni appunto sanità, difesa eccetera, ma all'interno di ciascuna di queste la voce economica di acquisti di beni e servizi è aumentata negli ultimi 5 anni del 17% in valore assoluto nei ministeri, cioè nel governo centrale, del 23% nei comuni e del 50% nel comparto della sanità. Allora, ricordiamo, in quanti anni questi aumenti? Gli ultimi 5 anni. Pensate, in cinque anni di massacranti polemiche sul contenimento dei costi, l'acquisto dei beni intermedi nella sanità, l'80%, cioè le siringhe, le lenzuola, le consulenze, è aumentato del 50%. Ecco, allora ci fermiamo un secondo perché abbiamo la pubblicità. Come vedete, questa quarta voce inizia ad essere una quarta voce piena di esempi dove bisogna scegliere, decidere e incidere sui livelli reali. Le altre tre no, ma questa quarta sì. Sì, questa voce significano 137 miliardi all'anno di spesa pubblica, quindi non parliamo di noccioline. All'interno, nelle varie amministrazioni, dicevamo che mentre il governo centrale, le amministrazioni centrali risultano aver avuto un aumento del 17%, i comuni del 23%, le regioni nel loro complesso del 37%, ma all'interno della spesa delle regioni, e sappiamo che all'85% è sanità, l'aumento degli acquisti della sanità è stato pari al 50%. Ora, non credo che negli ultimi 5 anni sia scoppiata in Italia una epidemia di colera o di tifo, e non credo che nel bene e nel male i servizi sanitari, cioè la salute dei cittadini, sia stata curata peggio o meglio di 5 anni fa. Diciamo che è stata comunque curata nello stesso modo. Come mai c'è il 50% di acquisti in più? Stiamo parlando delle siringhe, del cambio delle lenzuola, delle consulenze, delle analisi. Quindi non stiamo parlando della salute dei cittadini, stiamo parlando della spesa. Diciamo così, a parità di salute dei cittadini, quella spesa è aumentata del 50%, il che dimostra che in questi anni all'interno della pubblica amministrazione abbiamo abbastanza strozzato le amministrazioni centrali, i ministeri. Abbiamo strizzato abbastanza i comuni e abbiamo lasciato scialacquare le regioni. E non a caso nel federalismo fiscale regionale c'è stato un trucco recente nel varare quel decreto. Perché? Perché il perno di quel federalismo fiscale regionale dovevano essere i costi standard. E come abbiamo spiegato più volte ai nostri ascoltatori, per costo standard vi verrà ammannito, e questa è la scelta del decreto per la finanza regionale, invece un costo storico. Media, la media dei costi storici del 2010, che incorpora nella propria pancia quell'aumento del 50%. Ed è il motivo per il quale, mi permetta di precisarlo, io personalmente ho votato contro, essendo membro della bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, e invece quello che ho chiamato inciucio PD Lega PDL ha fatto passare quel decreto. Ne abbiamo molte volte parlato con Luca Ricolfi, che la pensa come noi, e il professor Antonini, che è il presidente della commissione tecnica, è costretto a dire no, ma è comunque un passo avanti. Però i nostri ascoltatori questo gliel'abbiamo dato molte volte. È un passo avanti che perpetua per i prossimi anni le ruberie e le malversazioni contenute. E comunque abbiamo visto che in questa quarta voce c'è modo di fare che? Di fare esattamente quello che il ministro Tremonti ha fatto l'anno scorso, senza applicarlo in modo operativo, ma in linea di principio è già fatto. L'anno scorso, nel decreto 78, che poi è diventato la finanziaria per il 2011, all'articolo 8,5, per la prima volta in un documento di finanza pubblica è apparso il criterio che io sostengo da 20 anni, e cioè non soltanto tagli sui valori tendenziali futuri, ma proprio per la voce acquisti di beni e servizi, in quel comma c'è scritto che il dato di riferimento storico è il 2009 e negli anni futuri quella spesa dovrà essere quella del 2009 meno il 5%, il criterio di decidere in più o in meno sul costo storico, sul valore storico. Solo che in quel decreto non è stato quantificato l'effetto, perché si dice nel breve è ricompreso nei tagli lineari tendenziali. In più, in quel comma ci si riferisce esclusivamente alle amministrazioni centrali, mentre cioè si tratta al di governo centrale. Allora preciso, dentro quella voce lo Stato centrale spende 27 miliardi, gli altri 110 miliardi li spendono gli altri enti, regioni, comuni e province. In più, in quel comma si disse l'anno scorso che questo taglio è a valere sul 2013. Allora, la nostra proposta è quella di dire: prendiamo quel comma, estendiamolo a tutte le pubbliche amministrazioni per un periodo, per un perimetro di 137 miliardi. E anticipiamo l'effetto taglio, cioè il dovere di mantenere quel budget di spesa. È quello che una volta si chiamava lo ZBB, Zero Base Budgeting, come criterio di massima. Anche se dentro già i dati del 2009 ci sono malversazioni, sprechi, eccetera. Però almeno conteniamo quelli. Estendiamolo a tutte le pubbliche amministrazioni e anticipiamo l'effetto al 2012. Bene, così facendo, basta fare 4 operazioni, non occorrono modelli sofisticati, rispetto ai valori tendenziali scritti nel DEF di aprile si determina un risparmio di 20 miliardi. 20 miliardi, senza macelleria, avete capito? Ecco, questa è una spiegazione un po' lunga, ma per far capire, diciamo, forse c'è chi piange proprio per questi 20 miliardi, perché siamo chiari. Se passiamo alla quinta e ultima voce di spesa, si capisce perché politicamente non si fa. In tutti questi anni non si fa. Qual è la quinta voce? La quinta voce, che nell'ultimo documento del governo c'è stato un trucchetto contabile, nel senso che prima in quelle tabelle era descritta come contributi in conto corrente alla produzione, contributi in conto capitale alle imprese. per farci capire, sono i famosi fondi perduti, cioè lo Stato mette i soldi dei contribuenti dentro le tasche di qualche azienda. Il totale di questa spesa è attorno a 43-44 miliardi all'anno. Se sommassimo questa spesa negli ultimi 25 anni per fondi perduti, conto corrente e conto capitale, avremmo metà del debito pubblico italiano. Quindi, a fronte di questo, dovremmo avere un paese che cresce perfettamente, il sud che raggiunge e supera la media europea, perché dopo 25 anni che ha avuto questo tipo di sussidi, bene, nell'ultimo documento i trasferimenti in conto corrente sono nascosti dentro una voce più larga, un canestro più largo, chiamato altre spese correnti, ma non è che cambia la sostanza. Allora, questi... Quando si dice travestito balzare vuol dire che in questa voce, per esempio, sono compresi anche i crediti alle imposte per il sostegno agli investimenti, eccetera. Questi invece si tratta di levarli. Non sono crediti d'imposta, sono soldi, fondi perduti versati. Allora, dentro questo, questa mole di 44 miliardi di spesa annua, ogni anno, circa 15 miliardi sono i soldi che il contribuente italiano trasferisce a ANAS, Ferrovie e Trasporti Pubblici Locali. 15 miliardi. Allora noi diciamo, manteniamo pure questi 15 miliardi anche per i prossimi anni, anche se qualcuno dovrebbe dire, come ha detto il governatore Draghi, come mai in Italia, nell'ambito delle infrastrutture e degli appalti, i tempi sono più lunghi e i costi sono doppi rispetto alla media europea, ma diciamo pure che quei 15 miliardi li manteniamo. 44 meno 15 sono 29. Bene, io non propongo di eliminare gli aiuti alle imprese, propongo di cambiarne il metodo della natura, e cioè no fondi perduti, sì credito d'imposta. Qual è la differenza? La differenza nello strumento è la seguente: il fondo perduto viene dato all'inizio per uno che dice che fa l'investimento, che assume. Quando ero segretario del CIPE e vice ministro dell'economia, un'indagine fatta dal Dipartimento per la coesione, emerse che dopo 3 anni i soldi erano spariti e l'impresa non c'era più. E francamente, se negli ultimi 25-30 anni questi soldi avessero avuto un minimo di effetto sullo sviluppo economico, avremmo quasi azzerato il divario nord-sud, perché questi fondi vanno prevalentemente 85% al sud e 15% anche alle aree depresse del centro-nord. Avremmo dovuto avere un sud almeno pari al centro-nord, cosa che mi pare evidente che non è stata. Allora, se invece questi fondi vengono trasformati in credito d'imposta, e cioè io ti do, un'azienda merita 10 milioni di sussidio, bene, non te li do prima e in contanti, ti do un credito d'imposta da scontare nei 5 anni futuri, ma automaticamente a quale condizione? Che l'impresa stia sul mercato, che assuma le persone, che faccia gli investimenti, che ci abbia le macchine, che faccia profitti utili. E al limite si può dare anche credito d'imposta da scontare nelle varie tipologie di tasse che l'impresa dovrà pagare. La differenza è non dare i soldi a gente che prende i soldi e scappa, ecco. Benissimo. Amici della esattamente politica. Sul piano del bilancio pubblico, qual è l'effetto di questa modifica del sostegno alle imprese? È semplicemente che invece di dare 29 miliardi all'anno che spariscono, bisogna coprire, ed è corretto, il credito d'imposta, che se spalmato in 5 anni significa grosso modo 4 miliardi all'anno per coprire il credito d'imposta. Quindi se tolgo 29 di spesa, 29 miliardi, e metto 4 miliardi per coprire il credito d'imposta, mi si liberano 25 miliardi. Ecco allora che 20 miliardi sugli acquisti, e quel metodo che abbiamo detto, e 25 fanno 45, sono 45 miliardi sulla quarta e quinta voce di spesa. Ed è su questo che è una proposta, un'apertura di dibattito, che noi diciamo, bene, Che facciamo con questi 45 miliardi? E qui viene l'altro aspetto. Ecco, adesso noi purtroppo abbiamo, senatore Baldassarri, esaurito il tempo, ma io non l'ho frenata prima, perché quello che mi interessava è che gli ascoltatori capissero bene in che cosa consiste la critica ai tagli lineari e ai tagli alla spesa inerziale tendenziale. I tagli lineari, siccome non fanno esattamente questo tipo di scelta che vi ha illustrato il senatore Baldassarri sugli acquisti dei beni intermedi enormemente esposti in questi anni e sui contributi a fondo perduto a chi piglia i soldi e scappa perché è amico della politica, stiamo parlando di pacchi, decine di miliardi ogni anno, quella è la scelta di una politica. Poi voi in ascolto potrete non essere d'accordo, potreste voler fare altri tagli, coalizioni politiche di segno diverso, ma il problema è farli, scegliere di articolare delle scelte politiche rispetto all'andamento inerziale. Poi c'è tutta la parte aggiuntiva del ragionamento, io prendo l'impegno con Baldassarri di farvela fare un'altra volta, perché non ci dobbiamo fermare, che naturalmente di queste risorse così identificate, che miglior fine fare perché l'effetto sia quello di diminuire l'effetto recessivo delle manovre come quelle proposte dal governo, l'abbiamo visto prima, di fare crescere di più l'economia italiana contemporaneamente avendo in mente il livello reale della spesa e delle entrate. E qui c'è un altro enorme capitolo, quindi le posso fare dare solo 10 secondi di messaggio. Sì, solo perché dopo tanti anni queste voci non vengono tagliate? Ma perché quei 45 miliardi, che in realtà sono molti di più, dice anche 800, la Corte dei Conti, no? Corruzione, esatto, evasione e quant'altro, bene, in realtà servono a foraggiare 400-500 mila persone in Italia, esatto, congreghe, in qualche caso anche organizzazioni criminali, va bene, e contro gli interessi di queste 400-500 mila persone, perché è diffuso il sistema, ci sono gli interessi di 56 milioni di cittadini italiani. Questa è la scelta politica, e cioè il governo, qualunque esso sia, preferisce attraverso lobby corporative e quant'altro mantenere questa, i 500 mila. Questa biada per 500 mila che esce dalle tasche. Naturalmente i 500 mila hanno strumenti potenti, certo, per che esce dalle tasche dei contribuenti tartassati, o vuole creare il futuro per gli altri 56 milioni di italiani. Va bene, e noi dobbiamo salutare il senatore Mario Baldassarri e ringraziarlo. Trovate il sesto rapporto sull'economia italiana sul sito www.economiareale.it. Grazie a Mario Baldassarri. Questa domenica sul Sole 24 Ore, il domenicale, il supplemento di cultura del Sole 24 Ore, torna ai suoi fasti, cioè torna ad avere la foliazione che aveva, quella grande a cui eravamo tutti molto affezionati e che è stato, a mio giudizio, un errore cambiare. Si possono sperimentare le cose, ma l'essenziale è tornare poi sulla strada invece che garantisce consenso e successo di quella formula, che è stata una formula di straordinario successo giornalistico, perché il giornalismo culturale aveva e ha ancora oggi e riavrà con maggior forza da domenica un punto di riferimento tra i più solidi in questo domenicale di cultura. E ne parliamo oggi del ritorno a quella veste, soprattutto per capire che cosa ci riserva dopo questa bella pepata sorpresa del Caravaggio, delle polemiche che ne sono derivate domenica scorsa. Ma nel numero di domenica che cosa ci riservate? Abbiamo con noi Armando Massarenti, che è il responsabile del supplemento culturale del Sole 24 Ore, quindi sulle sue spalle il compito naturalmente di farcelo tornare ad apprezzare come sempre i colleghi l'hanno fatto, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma come la decisione è quella di nuovo tornare sul piede dell'acceleratore per dire non perdiamo il nostro pubblico, ma continuiamo a offrirgli un prodotto di grandissimo livello. Allora Armando, grazie per essere qui, cosa ci riservate? Grazie a te. Allora noi abbiamo una copertina che è un altro ritrovamento, un altro grande importante ritrovamento, come era quello del Caravaggio, che poi peraltro ha suscitato anche una discussione molto interessante, però questa volta si tratta di un ritrovamento letterario. Non posso dire troppo perché è proprio un inedito che riguarda un grandissimo del Novecento, un grande scrittore del Novecento, è Primo Levi. Ma questo inedito ridimensiona una serie di questioni filologiche molto importanti, e non solo filologiche, anche che riguardano proprio il modo in cui sono stati pubblicati alcuni suoi libri. E questa è la copertina. Non credo farà molto discutere, perché qui il documento è assolutamente inoppugnabile. Io punterò moltissimo proprio sul, sia in questo numero sia in tutti i numeri a venire, sul patrimonio di autorevolezza che il supplemento della domenica si è costruito in questi anni. Punterò ovviamente anche sulla scienza, sulla filosofia, che sono Poi le pagine che ho sempre curato, ci saranno due interventi molto belli, uno di Gilberto Corbellini sulla storia della biologia. Gerhard Edelman 50 anni fa faceva delle scoperte fondamentali in cui metteva insieme evoluzionismo e storia e diciamo funzionamento degli anticorpi, quindi una cosa che ci riguarda molto molto da vicino. Remo Bodei, altra grandissima firma nostra, che parla invece di Heidegger, quindi di una filosofia un pochino antiscientifica, io non amo molto, ma che in realtà qui viene mostrata al meglio, è quasi come fosse una filosofia zen, ecco, ce la mostra con questa idea della radura, dei sentieri interrotti, eccetera, eccetera, reinterpretati da Remo Bodei in questa chiave. E poi altre firme importantissime, che forse era un po' che non apparivano, ma che sono il meglio che c'è nella storia, nel campo proprio degli studi storici. Pensiamo a Massimo Firpo, che ci racconta come è importante la devozione dei santi nella storia italiana. Allora, ecco, Armando, insomma, io posso... potremmo andare avanti. Esatto, io posso dirti semplicemente che d'ora in poi, per il lancio di polemiche culturali, per la presentazione del supplemento domenicale, cioè puoi contare sui microfoni anche di, non so, di Radio 24, che lo sai perfettamente, ma specificamente su quelli della versione di Oscar, perché io sono un tifoso di Armando Massanetti, sono un tifoso del Domenicale del Sole. Io sono convinto che il ritorno del giornale alla sua funzione di grande strumento economico-finanziario era giusta, ma sono convinto che questo non vada affatto discosto dall'avere una grande missione dell'approfondimento culturale. Il nostro paese ha dei pregiudizi antiscientifici, legge poco e pubblica molto, ha bisogno di guide e grandi dibattiti che vadano al di là delle mode e siano spesso anzi antimodaioli per la difesa di alcuni principi di fondo della cultura, della scienza e come di quella umanistica, e come anche della parte biblica, che è un punto di forza che io mi sento di difendere da sempre, a volte un po' criticato, un po' elitario, ma invece di questo strepitoso strumento che torna alla sua veste domenica prossima. Quindi leggetelo tutti voi in ascolto, grazie a Armando Massanetti, siamo in ritardo, ho sforato tutto, quindi linea al giornale radio, appuntamento a lunedì. Radio 24, la passione si sente.